posto della cattedrale e l'ambasciatore imperiale presso la Santa Sede, Giovanni Hindapach, come nuovo principe vescovo di Trento. Papa Paolo II voleva dare la provisione al cardinale Francesco de Gonzaga, ordinando al capitolo di Trento la revoca dell'elezione del Hindapach e la rinuncia al diritto di elezione. In questo momento l'imperatore Federico III usò il suo diritto di nomina concessogli da parte del Papa Eugenio IV per il periodo di tutta la sua vita. Lui nominò il Hindapach come principe vescovo di Trento, cioè il già eletto dal capitolo. La bolla della conferma papale è stata emessa il 12 maggio del 66. Però, su intervento del Papa, non fu consegnata al neonominato. Una nuova o anche una terza bolla, che non faceva più menzione del diritto di elezione da parte del capitolo, Hindapach la ha infine accettata, protestando contro la violazione del concordato. Lui fu consacrato a Roma il 27 luglio del 66 e, come noto, il 21 del settembre prese possesso a Trento. Dal passaggio del Tirolo alla Casa d'Austria nel 1363, il Principato Ecclesiastico di Trento ha subito sempre più il predominio della Casa d'Austria e delle forze tedesche. Si pensi ai principi vescovi di lingua tedesca, Alberti di Ortenburg, 1363 al 90, Giorgio de Liechtenstein, 1390 al 1419, Alessandro da Messovia, 1323 al 24, e Giorgio Hack dal 46 al 65. Si pensi all'occupazione di territori trentini e di Trento stessa da parte dei conti del Tirolo. Sempre più incontriamo personaggi di lingua tedesca entro il capitolo della cattedrale, in altri uffici e in benefici diocesani. Le vicende intorno alla nomina del Hindapach come principe vescovo sono accompagnate da una corrente curiale e filo-italiana e da un'altra corrente filo-austriaca persino entro il capitolo di Trento. In contrasto con gli altri capitoli cattedrali dell'impero, anche in contrasto con quello della vicina Bressanone, a Trento la prima dignità post pontificalem era sempre stato il decano. Il capitolo elesse nel 1448 il canonico Giovanni Sulzbach come decano e come prima dignitas era, secondo il concordato, di elezione, del diritto di elezione del capitolo. dopo la sua morte nel 64, però Gotardo de Calabinis di Trento nel 1465 presentò la provisione della Santa Sede per il decanato. Il capitolo accettò la provisione e gli diede il possesso, senza difficoltà, sembra. Dopo la morte del Calabinis nel 67, il capitolo elesse il Gregorio Andrea di Mühlhausen. In contrasto a questa elezione fu presentata una provisione della Santa Sede a favore di Stefano Approvino. Gregorio Andrea non riuscì ad opporsi al Approvino, neanche Giorgio Nothaft, eletto dal capitolo dopo la morte di Andrea. L'imperatore Federico III, il 2 giugno del 69, scrisse una lettera al Papa pregandolo di aiutare il decano Nothaft contro l'Approvino. Il 1 novembre del 64 l'imperatore scrisse al Hinderbach, però tutto inutile. L'Approvino rimase in carica, mai presente a Trento, fino alla sua morte nel 76. Il 6 ottobre del 76 Antonio Maria, Episcopus Lunensis, nipote di Sisto IV, presentò la bolla di provisione per il decanato di Trento ed il capitolo non ebbe nessuna difficoltà ad accettarla. Antonio Maria, mai presente, nel 78 nominò il canonico Vincenzo de Montfort come vicedecano. Il capitolo si riservò però il diritto di nomina e dopo la resignazione di Antonio Maria presso la Santa Sede, nella bolla di provisione a favore del decano Giorgio De Fatis de Terlago del 19 gennaio 79, troviamo l'espressione «Dudum sicquidem omnes dignitates ceteraque beneficia ecclesiastica apud sedem apostolicam tunc vacantia et in antia vacatura collazioni et disposizioni nostre reservavimus et reservamus». Il capitolo non ha avuto problemi ad accettare la provisione papale. Giorgio De Fatis, sempre in residenza a Trento, è poi morto nel 1500. Dunque, dal 1465 il decanato del capitolo di Trento fu sempre provvisto dalla Santa Sede. La prepositura di Trento, secunda dignitas post pontificalem, fu, come è noto, eretta dal principe vescovo Alessandro de Masovia il 10 ottobre del 1425, su consenso del capitolo della cattedrale e con i fondi della soppressa abbazia di San Lorenzo. La nomina del preposito spettava al principe vescovo. Il primo preposito nominato dal vescovo era Stanislao de Sobnov, morto nel 1450. Papa Callisto III, il 5 ottobre del 1455, ha confermato la soppressione dell'abbazia San Lorenzo, l'istituzione della prepositura ed ha nominato Giovanni Hinderpach successore del prevosto defunto Sobnov. A causa delle famose opposizioni da parte dell'abate Benedetto di San Lorenzo nel 1456 e nel 59, seguirono altre conferme pontificie della prepositura e della nomina del Hinderpach. Dopo l'elevazione del Hinderpach al trono principesco vescovile di Trento, Paolo II ha concesso in la provisione al canonico Gaspare de Teramo ed ha chiesto nel 66 e nel 67 all'arciduca Sigismondo del Tirolo il prestigioso aiuto affinché il nuovo prevosto venga installato a Trento, che avvenne solo il 30 novembre del 69. La nomina del prevosto, fissata nel documento di fondazione a favore del principe vescovo, passava dunque anche alla provisione apostolica. L'arcidiaconato di Trento, di vetustissima istituzione, ai tempi del Hinderpach fu sempre concessa tramite provisioni apostoliche e da non residenti. Ci incontra Antonio da Forlì, morto nel 1484, e dopo Giovanni Episcopus Turnacensis, morto nel 88. La scolastria, quarta dignità del capitolo cattedrale di Trento, era nei mani del canonico Giovanni de Strelitz dal 41 al 66 e poi del canonico Giovanni Costede dal 66 al 71. Dal 73 all'88 la scolastria era nelle mani del mantovano Bartolomeo de Marascis, maiordomus del Papa, non residente, e dall'88 al 93 di nuovo del canonico residente Johannes Fugger. La nomina dei canonici di Trento era regolato dal concordato di Vienna, abbiamo già sentito, era di elezione del capitolo nei mesi pari e di provisione apostolica nei mesi dispari. Ma oltre alle prescrizioni del concordato vienesi anche in questo periodo post-concordatario, troviamo ancora le aspettative pontificie per i canonicati di Trento, che furono anche dopo il concordato accettati dal capitolo della cattedrale. L'influsso del principe vescovo dell'ordinario diocesano sui canonicati non si può constatare in forme fisse. Qualche volta nelle nomine, nelle elezioni da parte del capitolo, troviamo anche la formula su intervenzione del principe vescovo viene eletto, eccetera, eccetera. Il diritto imperiale dei prime preces, che sono in vigore dal XIV secolo, nel XV secolo lo troviamo, però raramente, anche in uso qui a Trento. Non di poco valore era l'influsso da parte del conte del Tirolo, arciduca Sigismondo, come avvocato della Chiesa e del capitolo di Trento. Lungo il ventennio del Hinderpach a Trento, dal 66 all'86, ci incontrano 27 nuovi canonici entro il capitolo della cattedrale, di cui 15 provvisti dalla Santa Sede, 11 con elezione del capitolo e uno su intervento del arciduca Sigismondo del Tirolo, che poi è stato confermato dalla Santa Sede, cioè il prevosto Ulrich Knoesi. Uno degli argomenti più delicati e più interessanti nella nomina dei canonici spetta alla loro appartenenza nazionale. L'imperatore Federico III, il 2 giugno del 1469, lettera indirizzata a Papa Paolo II, sempre in connessione con la nuova nomina del decano di Trento, scrisse: quia cum Rome fuissemus sanctitati vestre clarius exposuimus, quantum nostra interesset indicta ecclesia tridentina italicos non assumi, quantumque periculum ipsi ecclesiae tridentine et homui nostri austriace allaturum sit, dignitates eiustem ecclesiae tridentine, citramontanos et italice nationis homines assequi. L'imperatore si riferisce con queste parole proprio alla situazione clamorosa in occasione della nomina del principe vescovo Hindelbach, della provisione del prevosto Gaspare de Teramo del 66-67 e della provisione del decano Stefano Saprovinos dal 67 al 69. Il primo novembre del 69 l'imperatore scrive al principe vescovo Hindelbach che in occasione della sua visita a Roma il Papa era molto comprensibile per la sua richiesta e solo nel 20 aprile del 1474 Papa Sisto IV ha provveduto con la polla alla risposta della richiesta dell'imperatore Federico III e dell'arciduca Sigismondo del Tirolo, dicendo: statuimus et ordinamus, è il testo della bolla del 1474, statuimus et ordinamus, quod te inceps perpetuis futuris temporibus, nullus cuiuscunque dignitatis status, gradus, vel conditionis fuerit vigore quarumcumque concessionum sae gratiarum etiam a novis vel apostolica sede forzan impostorum emanatorum qui non ex imperatorum romanorum dominiis in Alemannia existentibus sive etiam ex dominiis ducum Austriae pro tempere oriundus aut de eorum nec non episcoporum tridentinorum pro tempere familia existat in canonicatum predicte ecclesiae recipi se admitti possit nec vedebiant nisi ad minus due partes canonicorum capitularium eiustem ecclesiae ex predictis dominiis et familia existant. Dunque, due terzi di lingua tedesca, un terzo di lingua italiana e tutte le dignità del capitolo a membri di lingua tedesca. Dei 27 canonicati, di questi 20 anni di potere del Hindelbach, 12 erano di lingua tedesca e tutti questi eletti dal capitolo. I provisti da parte della Santa Sede ne erano 15 e tutti italiani, di loro solo 4 oriundi del territorio trentino, tutti gli altri erano familiari della Santa Sede. Questa proporzionale è infatti assai interessante. E di questi canonici in questo periodo pochi erano di continuo in residenza nella cattedrale di Trento. Delle 18 canonicati, in media 5 o 8 canonici presenti. In occasione dell'elezione del canonico Cristoforo de Schroffenstein, subito dopo la morte dell'Hindenbach, il 30 dicembre del 1486, erano presenti, oltre al decano Georgius de Fatis, solo Ulrich von Lichtenstein, Konrad Hindenbach, Albert de Queller, Andrea de Facinis, e poi prosegue il documento di installazione, non plures de residentibus pronunc presentes, qui commode huic actui interesse possent. Da questa espressione possiamo ricavare che in questo periodo pochi dei 18 canonici della cattedrale di Trento erano presenti in cattedrale. La storia del capitolo cattedrale di Trento in questi 20 anni del Hindenbach è dunque anche un fenomeno del gioco tra la corrente papale e la corrente austriaca, che la notiamo anche in queste circostanze, persino nell'ambiente del capitolo della cattedrale di Trento. Grazie. Ringraziamo il professor Wolfsgruber che ci ha immessi in questi complessi congegni che hanno dei grandi risvolti poi anche nei tempi successivi, risvolti di natura generale, e lo ringraziamo anche per lo sforzo che ha fatto per parlare, però che parla benissimo l'italiano, perciò non è vero, nessuna preoccupazione.